Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti i gastronauti e a tutti i radioascoltatori. Ebbene, oggi sarà una puntata un po' diversa dalle solite, nel senso che faremo così, diciamo, un tour nelle zone terremotate per parlare con gli artigiani del cibo, con produttori di vino, per capire appunto qual è la situazione. E molti di questi hanno voglia di ricominciare, ma non lo possono fare perché hanno il laboratorio distrutto, perché hanno avuto dei danni. Allora noi cercheremo di farci raccontare queste storie per vedere se magari ci sarà qualcuno dall'altra parte, quindi non dalla parte di chi parlerà delle loro storie, ma di chi le ascolterà, di intervenire, di creare anche delle alleanze, come già molti di questi artigiani stanno facendo con altri artigiani. Quindi ricordo, numero verde 800 24 00 24, 349 238 6666. Bene, io voglio cominciare da un produttore di salumi, da un norcino, come si dice anche in Abruzzo, perché l'ho visto, l'ho incontrato e devo dire che ho visto la voglia veramente di ricominciare, di non lasciare la propria attività. Buongiorno a Mauro De Paolis. Buongiorno Mauro. Buongiorno Davide. Lei tu eri a Paganica, quindi il tuo laboratorio è a Paganica. Ci vuoi raccontare in quale stato è il tuo laboratorio e le difficoltà di ricominciare? Niente, ringraziando Dio, le nostre strutture, sia il negozio che sta aperto nel 1920 da mio nonno e mia nonna, e sia il laboratorio, sono rimasti intatti, solo che essendo nella zona rossa, quindi alto rischio crolli, non può essere riaperto. E sto cercando con i vigili, con i vigili del fuoco, fare la richiesta per poter prendere i prodotti e poterli vendere, ma non è la vendita che facevamo prima. Però questi sono piccoli passi che noi vogliamo ricominciare, vogliamo riniziare e dare ancora impulso a questa zona devastata. Ecco, mi racconti cosa produci, perché tu hai una gamma di prodotti. Noi siamo un'azienda che è stata aperta, come ho detto prima, dal 1920 da mio nonno, una piccola bottega al centro storico di Paganica, e nel periodo invernale si facevano salumi. Questa tradizione è rimasta ancora tuttora, abbiamo intensificato un po' di più la produzione dei salumi, però li facciamo sempre a livello tradizionale, soltanto il periodo invernale, dove il maiale qui, essendo una zona d'inverno fredda e con le temperature giuste, possiamo stagionare e lavorare in un modo nel modo tradizionale il salume, il maiale, ecco. Rimani con noi, sentiamo già un radioascoltatore, Enrico dalla provincia di Pescara. Buongiorno Enrico. Buongiorno Paolini, ben risentire a tutti. Mi dica. Io sono il titolare di un'azienda che produce liquori, Centerbatoro a Tocco da Casauria, sì, un po' lontano dall'epicentro del sisma. Quello che vorrei che voi, che avete la possibilità di parlare al pubblico, diciate è che l'Abruzzo non è terremotato, è terremotata purtroppo la zona dell'Aquila, ma che ci sono ancora migliaia di paesi splendidi, bellissimi, dove il terremoto non ha fatto niente, non si prevedono terremoto, per cui si starà benissimo, perché se noi produttori a qualsiasi livello avremo l'Abruzzo fermo di turismo, noi veramente chiuderemo bottega. Io ho un'azienda che ha 200 anni di vita, e lei mi insegna che insomma chiudere un'azienda che ha 200 anni di vita... Senta, mi piacerebbe proprio. Enrico, sicuramente lei l'ha fatto lei l'appello, io però ne aggiungo uno, visto che ci sono tantissimi altri paesi appunto che non sono stati toccati, visto che ci sono tanti altri produttori che sicuramente hanno le loro così strutture intatte, aiutate questi produttori che invece hanno avuto, come nel caso di De Paolis, sì, non hanno avuto l'attività distrutta, però non possono rientrare e in questo periodo magari potrebbero continuare a produrre. Questo io l'appello che faccio, che se ci sono così dei colleghi che ascoltano questa trasmissione, dei produttori che sentiremo, perché non dargli una mano, lanciargli appunto un aiuto facendoli produrre da altra parte, distribuendogli i prodotti che gli sono rimasti. Grazie, grazie, la ringrazio. il gastronauta. Bene, riprendiamo questo viaggio tra gli artigiani, i produttori dell'Abruzzo che hanno avuto dei danni, anzi molto danni. Ricordo, numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Buongiorno Leonardo Pizzolo, buongiorno. Buongiorno Davide. Lei produce vino, no? Produce Montepulciano e Trebbiano, sì. Se non ricordo male. Quali danni ha avuto lei dal terremoto? Ma noi abbiamo avuto solo danni nella parte vecchia, diciamo, della nostra struttura, che è il deposito degli attrezzi, che è una struttura che è crollata praticamente in una parte. Invece abbiamo avuto solo delle crepe all'interno della cantina, dello spostamento di vasche, però non danni importanti strutturali all'interno della cantina, solo in questo edificio a lato, insomma, e poi abbiamo un po' di segni, insomma, si vedono un po' dappertutto. Quindi la vita continua, l'attività sì, continua, quindi meno male, insomma. Ma questi danni che lei ha avuto le hanno portato dei problemi di produzione, di imbottigliamento o proprio niente, quindi? No, problemi non ne hanno portati, i problemi sono quelli dei quali parlava l'ascoltatore di prima, che sono legati soprattutto al fatto che tutta questa forza mediatica di questo terremoto ha portato via dall'Abruzzo quei turisti, quelle persone che venivano anche a visitare i borghi, no? A visitare i produttori come Mauro, venivano qui e adesso queste persone non ci sono più, ovviamente, per cui noi speriamo presto di poter ripartire anche in questo senso, che è il danno, diciamo, più importante, più grave, perché noi qui viviamo molto con l'economia locale, con il mercato locale, certo. Quindi è molto importante far ripartire quello, dato che adesso la zona dell'Aquila è in gran parte inagibile, per cui lì ci vorrà molto tempo. Speriamo di poter riportare presto le persone qui, perché ci sono delle parti bellissime da visitare, ancora fuori rischio, diciamo, fuori dalla zona di pericolo, dalla zona terremotata. Quindi i clienti dei ristoranti di L'Aquila dintorni sicuramente mancano, insomma, questo è il punto. Certo, mancano, soprattutto mancata anche nel periodo di Pasqua, no? Certo. Che ovviamente è ricaduto proprio a ridosso del terremoto, per cui in quel momento lì non abbiamo più avuto l'affluenza, ci sono state moltissime disdette sia nei ristoranti, negli alberghi, e tutto quel turismo che si era costruito adesso in questo momento è fermo, quindi anche le produzioni locali, Davide, devono essere comunque vendute, certo, fuori, perché si faceva molto sul mercato locale, l'esempio più fulgido è proprio Mauro, no? Quindi noi stiamo cercando adesso di aiutarci fra di noi, anche cercando di andare a proporre fuori, diciamo, i nostri prodotti, magari anche tutti insieme. Bene, questa mi sembra un'ottima idea. Se c'è qualcuno, lo ripeto, che appunto volesse mettersi in contatto per un'operazione di questo genere, siamo disponibili così a passare poi diciamo i nomi. Bene, continuiamo questo viaggio, ora andiamo in un caseificio da Edoardo De Carlo a Campo Felice Lucoli, provincia di L'Aquila. Buongiorno De Carlo. Buongiorno Davide, buongiorno a te. Lei ha avuto molti danni? Diciamo non direttamente, noi il caseificio fortunatamente ha solo qualche lesione interna, ma di irrisoria entità, diciamo. Abbiamo il problema di uno stabile a fianco al nostro, che purtroppo essendo più alto e vecchio, quasi diroccato, ecco, ha avuto una lesione diagonale e potrebbe cadere sul caseificio. Ecco. Quindi hanno chiuso tutto il caseificio, il nostro problema è quello. Quindi non potete produrre voi? Adesso non possiamo produrre perché non avendo il gas, diciamo, i macchinari sono totalmente fermi per quanto riguarda la produzione. Okay. E niente, non ce lo danno il gas se non portiamo l'agibilità dell'intero stabile, ecco. Lei De Carlo che formaggi produceva? Noi produciamo dei formaggi di mucca, di pecora, di capra, facciamo tutta una linea di mozzarella, ciliegine a livello molto molto artigianale, cioè tipo la mozzarella, le scamorze, le trecce, facciamo tutto interamente a mano. Ho capito. Prettamente artigianale come azienda, come Mauro, diciamo, d'altronde. E le previsioni di tornare nel vostro caseificio? Previsioni è un mese adesso, ma ancora non se ne vede la strada, ecco, anche perché è tutto intasato, i controlli vanno un po' a rilento e quindi non so fino a quando riapriremo. Ecco. Quindi situazione molto ma molto difficile la sua, mi sembra di capire, molto più difficile delle altre. Per la produzione, ecco, abbiamo buttato circa 30 quintali di latte che avevamo nel silos perché non potendo lavorare siamo riusciti a smaltirlo, ecco, tutto qua. Ho capito, credo che ci siano fatti problemi anche sul latte che poi vedremo. Grazie, la ringrazio De Carlo, grazie. Io voglio tornare un secondo a De Paulis. De Paulis, credo che questa idea appunto di muoversi assieme, lei ha già cominciato a farla, mi sembra, recentemente, sì, delle manifestazioni. C'è una cooperazione, tra virgolette, tra amici, ecco, Leonardo, Edoardo Di Carlo e altri produttori. Quindi noi già lavoravamo, diciamo, in sintonia in qualsiasi manifestazione dove ci chiamavano, ecco, e quindi già si lavorava così. Adesso ancora di più, questa è ancora più forte, quindi ci stanno dando una mano, tipo Leonardo che ci aiuta così. Poi ecco, ci sta un amico, un parente qui vicino che ha ripreso l'attività col suo mercato, mi sta dando una mano a poter vendere i miei prodotti. E quindi, perché prima, diciamo, essendo un produttore piccolo, essendo un produttore di salumi artigianali, non mi potevo far vedere troppo in giro, perché poi la produzione doveva aumentarla e quindi poi si diventava non più un salume tipico, un salume artigianale, ma un salume standard tipo industriale. Bene. Quindi a me la mia produzione è sempre molto limitata. Certo, certo. Bene, quindi, però nonostante limitata, ecco, il prodotto veniva richiesto anche da fuori, però ecco, siamo proprio a terra perché mi chiamano clienti da fuori, da Roma, i vecchi clienti che c'avevo, che io non posso andare, ecco, soltanto ogni tanto con i vigili magari mi chiamo e vado a prendere un po' di salame, un po' un prosciutto, che viene qualcuno e me prende, ma non è la vendita diretta. Certo. Però una cosa voglio dire, io il negozio che sta aperto nel 1920 non è agibile, cioè è agibile il negozio, però non è agibile la zona, quindi è inagibile. Riaprirò un negozio nuovo, sto facendo di tutto da solo, con le mie forze, con l'aiuto di qualche amico, e fra breve, un mese, avrò il negozio nuovo, e quindi inviterò tutti i miei clienti e chi mi conosce a poter tornare a Paganica, perché la via è tranquilla. Dove sta il negozio non ci sono pericoli, quindi si possono fermare, assaggiare il mio prodotto e dare vita al paese, che fino adesso è fantastico. Bene, grazie, grazie a Mauro De Paolis. Ricordo, numero verde 800 24 00 24. E abbiamo parlato di latte, abbiamo parlato di caseificio e ora abbiamo in linea con noi il direttore della centrale del latte dell'Aquila, Mario Sabelli. Buongiorno Sabelli. No, buongiorno a tutti. Mi dica, in questo momento voi avete avuto molti danni come centrale del latte? Sì, come centrale del latte abbiamo avuto danni che, purtroppo, essendo un'industria alimentare, devono essere accuratamente verificati, poi fatti vari collaudi e sezionate le varie parti dell'industria, per cui la centrale dovrà rimanere, diciamo, ferma per parecchio tempo, però nello stesso tempo siamo riusciti comunque a raccogliere il latte presso gli allevamenti, cioè abbiamo ferma la parte, diciamo, di confezionamento del latte, ma non la parte di stoccaggio. Prego, continui lei. Sì, devo dire questo, noi in questo primo mese dal sisma abbiamo iniziato a produrre dei formaggi, perché ci siamo resi conto che è arrivato molto latte generosamente da tutta Italia, anche dal mondo, e allora abbiamo diversificato la produzione, abbiamo iniziato a produrre delle buonissime mozzarelle in collaborazione con amici caseificatori, mozzarelle e scamorze. E stiamo tentando, con poco successo, di, diciamo, distribuirle e venderle presso tutti i vari accampamenti. Questo proprio per riuscire a pagare l'assegno del latte alla fine del mese a tutti i nostri soci. Dalla nostra centrale dipendono circa 85 famiglie di allevatori. Quindi lei ha detto con difficoltà. Sì, con difficoltà, perché purtroppo il nostro prodotto costa un po' di più del prodotto della concorrenza, ma è un prodotto fatto con latte del territorio, latte a chilometro zero, latte con filiera controllata e tracciata dall'Associazione Italiana Allevatori. E naturalmente abbiamo degli extra costi dovuti ai trasporti, perché dobbiamo portare il latte fuori della provincia per lavorarlo, trasformarlo in buonissime mozzarelle e poi riportarlo all'Aquila. E questo a causa, certo, dell'interruzione del gas, naturalmente. Bene, rimanga con noi Sabelli, sentiamo. Grazie. Fabio da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Sono Fabio, sono direttore di un'azienda di confezionamento carni di Roma. Sì. E sentendo la trasmissione pensavo che si potrebbe unire tutte queste aziende che hanno dei problemi oggi a causa del terremoto e provare a portare il loro prodotto sul mercato di Roma, organizzandole in un piccolo consorzio. Beh, guardi, l'obiettivo di questa mia trasmissione è proprio questo, di vedere se si suscita così un interesse come sta facendo lei ora, per poterli portare sul mercato di Roma. Fabio, io magari poi avrò il suo numero, la metterò in contatto con Mauro De Paulis e con qualchedun altro, magari vediamo se da questi contatti possa nascere qualcosa. La ringrazio molto, Fabio. Grazie del suo intervento. Bene, Nurzia significa torrone. Chi non ha mai mangiato i torroni dei fratelli Nurzia o delle sorelle Nurzia? Anzi, scatole bellissime, per anni diciamo che sono stati tra i torroni più presenti sul mercato. Abbiamo con noi Natalia Nurzia. Buongiorno Nurzia. Buongiorno, buongiorno. Anche voi avete avuto dei danni, mi dicono, piuttosto seri. Sì, beh, grandi danni nel nostro punto vendita, il centro storico, non ne abbiamo avuti assolutamente. Il problema è appunto il centro storico, che è abbastanza malconcio all'Aquila, questo è il problema. E noi conteremo la nostra speranza è riaprire il più presto possibile non solo il punto vendita, ma l'adiacente laboratorio storico dal 1835 lì, quindi... Questa è la nostra speranza, purtroppo siamo fermi anche noi. Senta Natalia, quando cominciate la produzione del torrone per diciamo le feste di Natale? La produzione inizia a fine settembre. Fine settembre. Inizia a fine settembre fino a Natale, quindi un po' abbiamo tempo, però chiaramente siamo fermi. C'è stata la collaborazione di molti commercianti di fuori regione, e abbiamo evaso degli ordini fortunatamente, però chiaramente è un grande problema al momento per noi. Beh, speriamo che a settembre, insomma, quando inizia la produzione, ci siano le possibilità di ricominciare a produrre. Sì, io lo spero vivamente, cioè mi impegnerò con tutte le forze per fare questa cosa. E poi, come ha detto Mauro De Paulis, è bella la collaborazione che già c'era, ma adesso si è rafforzata fra noi produttori aquilani, quindi questa grande mano che ci siamo dati l'uno con l'altro, questa è una bella cosa, sì. Bene, io la ringrazio, ringrazio anche Mario Sabelli. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare dell'Abruzzo, delle produzioni delle zone terremotate, Casari, abbiamo sentito un norcino, abbiamo sentito la centrale del latte, abbiamo sentito un produttore di vino. Bene, mi piacerebbe che oltre all'intervento di Fabio da Roma, che appunto dice che si può forse organizzare qualcosa a Roma, tutti assieme questi prodotti, di portarli a Roma, spero che ci siano altre telefonate, lo ricordo, 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Bene, ora abbiamo con noi Nico Romito. Nico Romito è un po', ormai, come posso dire, il simbolo della ristorazione abruzzese, ha raggiunto le due stelle, è di Riri Sondoli, quindi conosce benissimo tutti i prodotti straordinari di questa terra. E allora a Nico vorrei chiedere, Nico, cosa si può fare per questi produttori con cui tu sei in contatto giorno per giorno? Buongiorno. Allora, a mio avviso, ma pure parlando con altri colleghi di fuori regione, l'idea è quella di far entrare nei menu dei ristoranti di alta gamma, far entrare un prodotto, due prodotti, però che vengano lavorati e vengono messi in carta, quindi non per il problema o paura, che in questo momento c'è questa forte sensibilità sull'Abruzzo, quindi prodotti gastronomici, però mi piacerebbe che questa fosse un'occasione reale per far conoscere questi prodotti e quindi si riesca a lungo termine far lavorare sempre di più queste produzioni. Quindi l'idea è quella, ho parlato degli chef importanti, mettete in carta e proprio specificate, non so, prodotto da Mauro De Paulis, il salame, con quello ci creano un piatto. Ma me lo lasciate in carta per 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, in modo che il cliente che mangia percepisce quei sapori, quei prodotti realmente di grande qualità, e poi, pure passata questa forte attenzione che c'è in questo momento l'Abruzzo e le produzioni, comunque la gente lo continua a comprare perché il prodotto è realmente buono. Ecco, infatti mi piace che tu abbia sottolineato questo realmente di produzioni di grande qualità, è giusto che sia questo, e visto che tu stai lavorando su questo, rilanciamo appunto questo appello a molti colleghi magari che sono, che in questo momento ci stanno ascoltando, so che sono sempre tanti, di appunto di questa iniziativa che Nico Romito sta portando avanti, e magari lui è la persona che vi può mettere in contatto poi con i produttori, quelli magari che lui sta selezionando da anni. Bene, rimani con noi Nico. Sentiamo Fabio Di Iorio, presidente del Consorzio per la tutela dello zafferano. Ecco, vorrei sottolineare che lo zafferano dell'Altopiano di Navelli è sicuramente il più pregiato in assoluto, quindi un prodotto straordinario che sicuramente si trova in tutte le cucine dei grandi chef. Volevo chiedere a Fabio Di Iorio, buongiorno, se buongiorno a tutti. Se le produzioni hanno avuto dei grossi problemi. Beh, diciamo al momento quello che è il ciclo produttivo dello zafferano è in una fase di quiete, perché diciamo le lavorazioni vere e pesanti ci sono ad agosto e quando c'è raccolta a ottobre. Quindi in questo momento i campi sono a riposo. Quelli che ha avuto qualche danno sono nei laboratori di confezionamento, però diciamo sono danni. Quelli sono danni facilmente riparabili. Quello che io credo che noi dell'Abruzzo interno dobbiamo ricostruire insieme a tutte le persone che si sono sensibilizzate per darci una mano è la tranquillità delle persone, la tranquillità di riprendere una vita normale, cosa che qui sta avvenendo, cioè tutti stiamo tornando ai nostri ritmi normali, ritmi di lavoro, con tutte le difficoltà che ciò comporta in una situazione di, diciamo, di sfollati dalle proprie abitazioni, questo sì, però diciamo l'agricoltura non si è mai fermata in effetti, e questo vale per lo zafferano, ma vale per tutte le altre coltivazioni che ci sono in Abruzzo, che Nico conosce benissimo, e che fanno dell'Abruzzo interno una piccola nicchia di mercato per alcuni prodotti molto particolari come lo zafferano, insomma. Sentiamo una radioascoltatrice, Mariangela da Perugia, buongiorno Mariangela. Allora, buongiorno, io sono Mariangela, innanzitutto saluto tutti quanti e ringrazio di questo interessamento per questa lezione. No, la mia idea è questa, mi scusi ma mi sto commuovendo. La mia idea potrebbe essere interessante, ci sono questi abboccamenti da parte di questi negozi o di Roma o di questi piccoli rivenditori, ma perché non interessare la grande distribuzione? Quindi tutte le cooperative, tutti i vari supermercati a livello nazionale con uno stand esattamente per ogni rivendita dell'Abruzzo, di tutti i prodotti dell'Abruzzo. Beh, Mariangela, io credo che questo possa essere una buona idea. Bisogna vedere se ci sono le quantità in questo periodo, perché credo che addirittura, cioè, molte di queste produzioni sono di grande qualità e quindi diciamo che la produzione è limitata. Poi bisogna vedere se oggi sono riusciti riescono a produrre e a tenere dietro magari alla domanda. Però anche questa è un'altra interessante idea da lanciare, nel senso che oltre a quella che diciamo sta seguendo Romito, perché Romito ovviamente segue, come posso dire, la strada del suo livello di ristorazione, quindi va su quella strada, anche qui sicuramente ci potrebbero essere così delle grosse opportunità, magari appunto per la centrale del latte, per i formaggi di cui ci parlava il direttore della centrale Mario Sabelle, che diceva che praticamente ha una sovrapproduzione perché il costo di distribuzione nel territorio è più alto, e quindi è alto, e quindi sicuramente la gente in questo momento spende decisamente meno, quindi prendiamo anche questa sua idea sicuramente, e come posso dire, la rilanciamo come megafono se c'è qualche diciamo dirigente di grande distribuzione oppure di catene particolari, di cooperative, magari farlo intervenire su questo oppure metterlo semplicemente in contatto con i produttori che abbiamo sentito. Bene, grazie a Mariangela. Io volevo tornare un secondo a Nico Romito. Nico, visto che tu hai dato così appunto, hai lanciato questa idea, ci puoi dire quali potrebbero essere i prodotti? Ma prodotti sicuramente, prodotti gli ovini, carni ovine, quindi tutta la produzione delle carni ovine e quindi tutti i derivati, i formaggi, naturalmente lo zafferano, i salumi, ma una cosa pure bellissima che abbiamo noi, ma di qualità assoluta, sono i legumi, quindi le lenticchie di Santo Stefano, i ceci di Navelli, i fagioli bianchi di Paganica, i fagioli all'olio sempre di Pagani, sono particolarissimi. Cioè, la caratteristica proprio di queste aziende di qualità è comunque hanno una produzione limitata. Faccio un esempio, lo zafferano DOP dell'Aquila è una produzione che va dai 45 ai 55 kg l'anno, quindi a volte io lancio questo appello, cioè bisogna assolutamente lavorare questi prodotti di qualità, perché oltre al fatto che aiutiamo in questo momento queste produzioni, ma secondo me diamo un plus in più ai nostri menù, ai nostri piatti, perché realmente li garantisco sono buonissimi, però non vorrei che in questo periodo si verifichi un effetto pazzesco, cioè assistere a delle situazioni di speculazione su questo, certo, su questo, certo, su questa cosa. E quindi attenzione pure, lo faccio l'esempio dello zafferano, importante che l'etichetta ci sia zafferano DOP dell'Aquila, perché ci sono tantissimi zafferani in commercio a prezzi bassissimi, dove se noi leggiamo dietro sta scritto prodotto da una parte e iscatolato nella zona dell'Aquila, quindi però quello non è lo zafferano, certo, DOP dell'Aquila. Questo è importante, perché si può creare il fenomeno che tante aziende commerciali entrino in questo meccanismo e fare il loro business, e i piccoli produttori che purtroppo non hanno la capacità di penetrare il mercato stanno fuori. Beh, diciamo anche che molto, molto zafferano servito magari in bustina già macinato viene anche tagliato con del peperoncino o del peperone di Senise, quindi diciamo anche questo che può succedere, anche questo di fare veramente molta molta attenzione anche al prezzo, perché visto i prezzi dello zafferano di Navelli sicuramente ci sono certe bustine che vengono vendute, non può essere assolutamente proveniente da Navelli. Ma sentiamo un altro radioascoltatore, Marcello da Pisa. Buongiorno Marcello. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Io chiamo perché sono molto affezionato all'Abruzzo, sono nato a Napoli, vivo a Pisa e ho conosciuto qui a Pisa una realtà di gruppi d'acquisto sociali che non immaginavo, che al sud non è così diffusa, e potrebbe essere un suggerimento per i produttori abruzzesi, cioè contattare direttamente questi gruppi di cittadini che sono spontaneamente organizzati per acquistare nell'ultimo miglio, quindi prodotti locali, ma in casi particolari la solidarietà va avanti a tutto. Beh, diciamo aprire un canale di questo genere. Marcello, diciamo di ribaltare un po' e che non siano i produttori a così contattare i gas, ma che siano appunto i gas a contattare i produttori, perché ora si conosce questa situazione sicuramente, quindi è difficile che possano avere così l'idea e anche in questo momento essere liberi di mente di fare questa operazione. Quindi perché no, se i gas che si facciano vivi e sicuramente si metteranno in contatto magari con un produttore, poi sicuramente un produttore presenterà tutti gli altri. Volevo tornare un secondo su quello che ha detto Nico Romito. Mi sembra di capire che che Paganica veramente è un territorio di grandissima qualità. Mi sembra che abbia parlato di cereali, di fagioli, quindi, ed è uno dei più colpiti dal terremoto. Quindi perché non farsi vivi a Paganica? E sicuramente a Paganica ci sono una serie di produttori che potrebbero essere dei fornitori appunto dei gas, ma anche della ristorazione. Bene, e sentiamo, abbiamo un altro produttore in linea, che è Giulio Petronio, che è un pastore che produce formaggio e carni ovini. Buongiorno Giulio. Buongiorno. Lei ha avuto danni dal terremoto? Dunque, danni diretti alle strutture per fortuna no. Io sto a Castel del Monte, a 40 km dall'Aquila, ed è arrivata meno intensa questa scossa. Molte lesioni, il crollo del campanile, però per fortuna non ha fatto il disastro che ha fatto poi nella zona dell'Aquila. La sua attività ne ha risentito? La mia attività ne ha risentito indirettamente, in questo senso qua. Io produco latte, ho un caseificio e ritiro il latte ad altri colleghi della zona, di quest'area del canestrato di Castel del Monte. E purtroppo c'ho un punto vendita a Castel del Monte. È un mercato molto locale, perché non è che sia che abbiamo grossissime produzioni, per cui con tutti i negozi chiusi certo, ci troviamo adesso a soffrire di questa contrazione del mercato. Quindi lei ha una produzione pronta che appunto non riesce a vendere. Bene, se continuiamo in questo appello appunto, abbiamo sentito che ci possono essere così delle opportunità, speriamo che qualcuno le utilizzi. Il gastronauta. Continuiamo a fare un viaggio tra gli artigiani del cibo nelle zone terremotate, e continuiamo così a lanciare questo appello con, ridò il numero verde 800 24 00 24, se ci fosse qualcuno che ha qualche idea appunto per poter distribuire, per poter fare così delle manifestazioni per questi produttori che sono stati colpiti. E volevo sottolineare quello che ha detto Nico Romito, lo risottolineo ancora, sicuramente produzioni di qualità e non sicuramente interferenze magari di altri in questo momento che spacciano prodotti per la zona dei terremotati o d'altro. Stiamo sempre parlando di giacimenti gastronomici, come ci ha detto Nico Romito, di grandissima qualità, quindi adatti sicuramente all'alta ristorazione, adatti anche a negozi di delicatessen, ma perché no anche alla distribuzione. E quindi sicuramente potrebbe essere un'operazione interessante per appunto questi produttori di riprendere perlomeno l'attività o di vendere quei prodotti che hanno in giacenza e che appunto, dato le chiusure che sono nel territorio, sono tutte fermi, i prodotti sono fermi diciamo in magazzino, come abbiamo sentito i formaggi, specialmente quelli della centrale del latte di L'Aquila. Volevo ricominciare questo ultimo spezzone di trasmissione con Nico Romito per chiedergli qual è la situazione della ristorazione, perché noi non siamo riusciti a contattare qualche ristoratore all'Aquila, Paganica e dintorni. Volevo chiedere a Nico se sa appunto che questi ristoranti della città e fuori la città, se sono chiusi, se stanno riprendendo l'attività. Allora, tantissimi ristoranti purtroppo non sono più agibili, ad esempio il ristorante Vinalia che stava al centro dell'Aquila, il ristorante Elodia a Camarda vicino a Sergio è completamente inagibile, così tanti altri ristoranti del centro. Alcuni ristoranti stanno riaprendo anche con grosse difficoltà, perché c'è un problema importante, che non c'è più la fornitura del gas, perché hanno tagliato completamente, hanno chiuso il gas, e quindi per la voglia proprio di riaprire e comunque di iniziare a ridare un servizio alla città, di accendere la luce, si sono attrezzati o con dei bomboloni esterni o addirittura con delle piastre elettriche. Ad esempio, il ristorante al centro dell'Aquila, storico, La Conca, ha deciso di riaprire perché per fortuna il suo stabile non aveva subito danni e fa un menù sia a pranzo che a cena a 10 euro. E quindi lui ci ho parlato tante volte, ho detto: Nico, io voglio riaprire, c'è questa gente, devo ridare, ho voglia di ripartire. Il problema è che, questo lancio un appello a tutti quanti che ci ascoltano, soprattutto a gente, a ristoratori, che ci sono tanti ragazzi che comunque lavoravano in questi ristoranti e non erano proprietari. Ora loro stanno senza lavoro, perché comunque ci sarà tempo e ci vorrà tempo per riaprire questi ristoranti. Quindi se fanno riferimento a me, dei ristoratori, io comunque già ho mandato tantissimi appelli, però più ce n'è e meglio è. E hanno bisogno di aiuti cuochi, pure ragazzi di sala. Con l'email mio del ristorante io gli posso girare i numeri di telefono, l'importante è che diamo a questi ragazzi il vitto e l'alloggio. Nico, puoi dare la tua email? Sì, info@ristorantereale.it. Bene, io ti ringrazio molto Nico, se avrai sempre bisogno di rilanciare delle iniziative noi siamo a disposizione, grazie e a presto. Bene, sentiamo un radioascoltatore, Fausto dalla provincia di Rimini, buongiorno. Buongiorno Davide. Buongiorno. Dunque no, era per segnalare che il comune di Toriana, un paesino in provincia di Rimini, organizza assieme alla provincia di Rimini una manifestazione a fine luglio, dove volendo ci potrebbe essere spazio per ospitare con un loro stand, uno stand enogastronomico, e proporre per la vendita per 3 giorni, il 29, 30 e 31 luglio i prodotti dell'Abruzzo. Fausto, tu che sei un ristoratore, perché ti ho riconosciuto, sì, dalla voce di Toriana, puoi dare la email, perché chi ti sente magari vuole mettersi in contatto, poi il comune non si sa bene con chi, magari tu che sei molto sempre disponibile a queste iniziative, sì, può essere a disposizione, puoi dare la tua email? Certo, io però purtroppo quella del ristorante. Non sì, sì, no, dai bella, quella del ristorante, quella del ristorante va bene. Sì, info@ristorantepoverodiavolo.com. Bene, grazie Fausto per questo tuo intervento. Io ricordo, se ci sono dei ristoratori in linea appunto che hanno bisogno di personale, mettetevi in contatto con Nico Romito, perché sicuramente è un'iniziativa che può essere interessante, che può dar lavoro. Eppure c'è ricerca di cuochi, aiuti cuochi in giro per l'Italia, quindi credo che possa essere così un momento, in questo momento particolare possa davvero, davvero servire. Sentiamo Gianfranco dalla provincia di Modena. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno. E dunque noi a Delemont, in Svizzera, vicino a Berna, abbiamo un'attività di import-export. Trasportiamo i prodotti italiani e li vendiamo in Svizzera. Prodotti alimentari, quindi da Modena portiamo il Modena DOP, i salumi, si potrebbe fare qualcosa con i salumi dell'Aquila, che sono sempre i migliori, a mio avviso. Bene, e vuol dare anche lei la sua email? No, io in questo momento non riesco a dargliela, le posso dare la ditta o il mio numero di telefono. Beh, il numero di telefono magari poi lo diamo noi, lo lasci in sé, diciamo, alla centralinista, poi lo daremo noi. Grazie a Gianfranco. Bene, abbiamo con noi Tonino De Santis, che è un produttore di farina di Solina, addirittura c'ha un mulino a pietra, beato lei, a Pettorano sul Gizio. Buongiorno Tonino. Buongiorno. Non mi dica che ha avuto danni al mulino di pietra, perché sarebbe drammatico. No, il mulino sta bene, l'unica, le volevo rettificare, non sono di Pettorano, sono di Introdacqua. Va bene, bene. È quel paese che è salito sul palco il 1° maggio della banda. Bene, bene, benissimo, grazie ecco, della precisazione. C'è questo mulino di pietra, c'è questo grano di Solino, che è un grano caratteristico delle montagne abruzzesi. Sono anche un produttore di farro. Ho capito. E lei ha avuto danni? In azienda no, ma solo danni, diciamo, di vendita, perché sono scese le vendite. Ho capito. Beh, il farro è una cosa che in questo momento è molto richiesta, quindi lei fa farro, fa farina o vende anche farro? Cosa fa del farro? Anche pasta, no? E tutto, cioè anche delle gallette di Solina, ma essendo un po' la ristorazione ferma, c'è un po' tutto bloccato. Ci dica i prodotti, quindi, che fa di farro, perché sono richiesti in questo periodo. Io c'ho il farro perlato, c'ho la farina di farro, sì. Poi c'ho la farina di Solina, c'ho delle gallette di Solina, e questo per quanto riguarda la grossa produzione. E poi anche altre cose? C'ho dei ceci, ma lì ormai la stagione dei ceci è finita, quindi avendo io un'azienda biologica, quindi faccio colture a cereali con colture di ceci per fare il giro, per non usare i concimi. Bene, anche lei, se c'è qualcuno appunto che vuole, è interessato a questi prodotti, può mettersi in contatto. Bene, ora andiamo a Ofena, provincia di Aquila, all'azienda agricola Sapori di Campagna. Buongiorno ad Alessio Di Battista. Buongiorno. Alessio, lei cosa produce? La sento malissimo. Cosa produce? Lei produce lenticchie, a quanto sì, mi risulta. Sì, noi produciamo lenticchie, però si sente malissimo. E ci cerchi? Mi sente sì. Ora? Sento malissimo il telefono. Lei ha avuto danni? Sì, abbiamo avuto danni strutturali sul laboratorio di Santo Stefano di Sessanio, dove puliamo la lenticchia. Bene, che è famosa, è famosa. Le macchine sulla Ofena continuare a lavorare, insomma. Santo Stefano è famosissima per la lenticchia, anche per la sagra della lenticchia. Quando è la sagra della lenticchia? La sagra della lenticchia è sempre il primo sabato e domenica di settembre. Bene, speriamo che per settembre appunto la vita sia ripresa, perché questa sagra attira sempre moltissimi visitatori e quindi una grande attività per i produttori di lenticchie. Speriamo che il 1° di settembre si possa rifare e invitiamo moltissimi ad andare a visitare questo posto bellissimo dell'Abruzzo, appunto, con anche dei prodotti straordinari. Abbiamo chiuso questo giro, avrei voluto continuare, avrei sperato che magari fossero arrivate molte più richieste di collaborazione o di altro, però penso magari che poi in privato possa succedere qualcosa. Noi siamo a disposizione, chi volesse mettersi in contatto con me, info@gastronauta.it, che poi magari seguirò. A chi mi avrà mandato delle indicazioni, seguirò magari i contatti con i produttori, cercherò di mettere appunto in collaborazione produttori e magari negozi o ristoratori molto molto ben volentieri. Avete sentito che anche Nico Romito farà la stessa cosa appunto con i suoi colleghi.